Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno, bentornati. Oggi martedì 30 dicembre 2008, 30 dicembre, penultimo giorno dell'anno, tempo di bilanci, tempo di prospettive per l'anno che verrà, tempo di auguri, tempo anche di fare i conti con il 2008 sono i conti di una crisi, l'anno di Armageddon, l'anno un po' della catastrofe, come scrive Marco Riera sulla guida al risparmio oggi allegata al Sole 24 Ore. Buongiorno Marco Riera. Buongiorno a te Gianfranco e a tutti gli ascoltatori. Marco Riera è responsabile di Plus 24, il supplemento dedicato al risparmio, dedicato agli investimenti che ogni sabato è allegato al Sole 24 Ore, che oggi esce in un'edizione straordinaria con una doppia veste, una doppia copertina. Preso da una parte ha una copertina rossa, gli effetti della grande crisi, preso dall'altra parte, girandolo, ha una copertina azzurra, le nuove scelte di portafoglio. Il rosso è un po' il simbolo di quest'anno in cui le borse valori hanno tutte perso. Abbiamo sentito poco fa, la borsa di Tokyo ha avuto una delle peggiori perdite della sua storia, il Dow Jones il terzo peggior risultato, meno 36%, e guardando un po' ai risultati di tutte le borse, di tutti i titoli, di tutti gli investimenti, il segno meno è una costante, e quindi il rosso purtroppo si addice a questo bilancio, così come forse l'azzurro, le prospettive più positive si potranno essere del 2009. Ma cominciamo dal bilancio. Marco Riera, allora il bilancio è negativo su tutti i fronti, negativo con qualche prospettiva, perché forse più in basso di così non si può scendere, ma il bilancio, dicevo, è solo negativo. Marco Riera. Sì, è un bilancio uno dei peggiori della storia, come hai ricordato tu, soprattutto per la trasversalità dei ribassi, perché non c'è una classe di investimento che si sia salvata, ad eccezione dei titoli di Stato, perché i titoli di Stato dell'area euro, adesso non vorrei apparire come quello che tira fuori l'unica caratteristica positiva dell'anno, però effettivamente i titoli di Stato, quindi stiamo parlando di una categoria di investimenti abbastanza diffusa nei portafogli delle famiglie, ecco, ha difeso i risparmi, anzi ha ottenuto un ottimo rendimento perché è stato pari al 9% il rendimento medio dei titoli di Stato dell'area euro nel corso del 2008. Quindi la lezione positiva in un anno così disastroso è che la diversificazione ha pagato anche in circostanze così drammaticamente negative. Ecco, quindi la diversificazione, chi ha diversificato il proprio portafoglio, come peraltro anche su Plus 24 non si stanca di ricordare come un elemento, quasi un dogma per il risparmiatore, è riuscito in meno in parte a limitare le perdite. Le perdite sul mercato azionario, le perdite sono state molto forti, sugli altri mercati, su quello appunto dei titoli di Stato, come ricordava Marco Riera, si è riusciti a contenere le perdite, anzi a fare dei guadagni. Ricordo il numero verde per gli ascoltatori, l'800 24 0024, ma con Marco Riera vorrei appunto allora guardare subito alle prospettive del 2009. Abbiamo veramente toccato il fondo del barile, anche se la premessa è ovviamente necessaria. Fare previsioni è estremamente facile, indovinarle è certamente più difficile. Comunque proviamo a farle. Abbiamo toccato il fondo del barile, Marco Riera? Le borse sono scese parecchio per effetto sia delle attese di rallentamento e di recessione, sia anche perché le borse sono state usate come dei bancomat nei momenti peggiori della crisi, quando c'era tanta richiesta di liquidità, le borse sono stati dei mercati liquidi che hanno appunto offerto la possibilità a chi aveva bisogno di capitali di vendere le sue posizioni, ovviamente a prezzi sempre più penalizzanti, però comunque hanno adempiuto a questa funzione di un po' impropria di bancomat. Quindi ci sono stati anche dei motivi non fondamentali, slegati dal futuro delle aziende, che hanno guidato i listini così pesantemente a ribasso. Se la situazione della liquidità tornerà a normalizzarsi, e sarà un processo graduale, comunque abbiamo già visto dei segnali, abbiamo già visto il tasso Euribor, il tasso guida sui mutui casa, per esempio, che è sceso in modo estremamente incisivo nel corso delle ultime settimane, ecco che allora cominceranno a prevalere le ragioni fondamentali per l'investimento in borsa. Tra le ragioni fondamentali c'è anche il fatto che le borse anticipano sempre anche la ripresa del ciclo, quindi non solo le borse anticipano gli eventi negativi, ma anticipano anche quelli positivi. Quindi se il ciclo economico si invertirà. Questo potrebbe essere possibile, a detta di alcuni degli esperti che abbiamo interpellato nel nostro speciale che tu hai citato all'inizio. Ebbene, allora se questa ripresa avverrà nella seconda parte del 2009, se quindi il periodo più difficile sarà rappresentato dal primo semestre del 2009, ecco che allora alcuni effetti positivi di questa ripresa potrebbero già farsi vedere addirittura nel primo semestre del 2009. Io non vorrei, ecco, con questo in generale delle aspettative troppo ottimistiche. Purtroppo i mercati sono sempre molto imprevedibili, quindi non esiste un detonatore preciso che innescherà la eventuale ripresa dei mercati, perché prima ancora che forse molti risparmiatori si accorgeranno, ecco che le borse riusciranno a intravedere qualche segnale positivo e quindi riprendere la strada al rialzo. Non so se questo avverrà già nel 2009, però sicuramente le borse sono state molto esagerate nel prevedere, nello scontare degli eventi negativi, mi auguro che siano anche un po' eccessive e un po' esagerate nello scontare la ripresa dell'economia. Anche perché il salvagente che è stato messo un po' a riparo delle grandi aziende, pensiamo agli interventi nel settore auto americano, pensiamo alle garanzie per il settore bancario che è stato dato anche in Europa, una garanzia appunto sul fatto che le banche non falliranno e quindi c'è una garanzia pubblica sulla tenuta del sistema finanziario, indubbiamente potranno avere un effetto di contenimento di un ulteriore aggravamento della crisi e magari riuscire anche a dare le prospettive di una crescita futura. In questo senso, già tu Marco Riera dicevi già nella conclusione del tuo intervento che se ci saranno degli effetti positivi questi potranno essere anche amplificati, quindi in prospettiva, pur tenendo presente che il rischio in queste fasi è sempre molto alto, c'è la possibilità anche di recuperare in parte le perdite, se non di fare dei guadagni nei prossimi mesi, però con una estrema oculatezza, con un'estrema prudenza nel fatto di poter intervenire, di poter operare in borse valori che continuano a restare molto volatili. Marco Riera. Sì, io non suggerirei mai l'investimento azionario, ma questo vale adesso, valeva 10 anni fa, varrà anche tra 10 anni, a investitori che hanno portafogli limitati, redditi instabili, che comunque non hanno voglia, non hanno la disponibilità di vedere oscillare in modo drammatico, come è avvenuto quest'anno, il valore dei loro investimenti. Questo quindi vale per tutti i risparmiatori che non hanno le caratteristiche per investire in azioni. Invece c'è una quota di investitori, lo so che in questo momento è assolutamente marginale, perché nessuno in questo momento vuol sentirsi raccontare la favola, quella che suona come una favola in questo momento, quella delle azioni che rendono di più delle obbligazioni dei titoli di Stato nel lungo periodo, perché appunto sulla pelle e sulle tasche dei risparmiatori sta piuttosto la grave perdita che hanno subito nel corso del 2008, però in realtà è proprio da fasi di grave crisi e di pesanti ribassi come quella che stiamo attraversando che possono nascere delle prospettive interessanti di rendimento negli investimenti azionari. Ovviamente non con un orizzonte da qui a un anno, da qui a 3 anni, io insisto sul fatto che anche in una situazione come quella attuale un orizzonte di 10 anni è compatibile con un investimento azionario e ribadisco che se un investitore non ha questo orizzonte temporale, non ha la disponibilità ad aspettare così tanto, fa benissimo a stare lontano dalle azioni e dalle borse. Ecco, il mercato finanziario peraltro in questo periodo, dopo le burrasche che c'è stato negli ultimi mesi, è anche un mercato un po' più trasparente, è stato un po' ripulito dai titoli tossici, dai titoli fantasma, dai derivati non troppo chiari che avevano appunto illuso molte persone di poter avere dei rendimenti molto alti che sono rivelati poi delle fonti di reddito. Quindi abbiamo un mercato in cui qualcuno è rimasto scottato, ma il mercato ha guadagnato da questa crisi, forse in trasparenza e in maturità. Marco Riera. Beh, certamente c'è in corso da diversi mesi, almeno da 18 mesi a questa parte, una ripulitura dei mercati dagli eccessi degli anni passati, eccessi che risalgono anche agli anni 90, perché le origini di questa crisi stanno negli anni 90 in una politica americana assolutamente bipartisan, quindi sia democratica che repubblicana, di deregolamentazione, per esempio del mercato dei derivati e anche del mercato del credito, con la possibilità concessa agli istituti di utilizzare l'indebitamento e la leva finanziaria a livelli che non si erano mai visti prima. Ecco, quindi questi eccessi richiedono del tempo, poiché sono maturati su orizzonti temporali molto lunghi, richiedono anche orizzonti temporali lunghi per essere risanati. Però effettivamente una grossa parte del lavoro io ritengo che sia già stata fatta, ecco, quindi sicuramente gli investitori, i risparmiatori che affrontano oggi i mercati lo fanno in condizioni di maggiore trasparenza, non dico di maggiore sicurezza, perché per definizione se gli investitori scelgono delle attività rischiose devono correre dei rischi, però con un quadro che è più affidabile rispetto a quello che c'era per esempio negli anni passati. E quello che ci chiedono molti ascoltatori con dei messaggi SMS, se è cambiato qualcosa per evitare che la storia si ripeta. Lo vediamo tra un attimo. Sentirei Daniele da Firenze. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ci dica. Volevo fare una domanda all'ospite riguardo le vendite allo scoperto. Ho sentito dire che la decisione è stata rimandata al 16 di gennaio e se veniva riattivata questa vendita allo scoperto o no. E volevo anche chiedere brevemente se non ritiene che questo divieto abbia in qualche modo facilitato gli investitori primari per portare i prezzi dove desideravano in maniera molto più semplice. Ecco. Grazie. Marco Liera, sulle vendite allo scoperto. Marco Liera. Sì, io credo che i divieti di vendita allo scoperto vigenti non solo nel nostro paese ma anche su altri mercati col tempo verrà meno, perché è una misura legata all'emergenza e devo dire non è una misura che può portare dei benefici nel medio periodo, perché alla fine i ribassisti comunque saranno anche degli speculatori e quindi stanno antipatici a molti, però i ribassisti creano liquidità sul mercato, quindi ricordiamo che per ogni posizione di vendita allo scoperto c'è una posizione di segno opposto, quindi non è vero che gli speculatori di per sé spingono i mercati al ribasso, certamente creano maggiore liquidità, la possibilità che quindi anche i piccoli risparmiatori possano fruire di mercati più liquidi. Quindi io credo e mi auguro che questa misura col tempo venga meno. Stiamo parlando con Marco Liera, responsabile di Plus 24, il supplemento del sabato del Sole 24 Ore, che oggi è allegato al Sole 24 Ore con un numero eccezionale di bilancio del 2008, gli effetti della grande crisi e le nuove scelte di portafoglio, un'analisi dedicata appunto al risparmio e ai risparmiatori per muoversi in questa fase certamente difficile, certamente complessa, in cui il bilancio del 2008 è un bilancio pesante, soprattutto sul fronte delle borse valori, e le prospettive del 2009 sono prospettive incerte e difficili, anche se una luce si vede in fondo al tunnel, perché non sono ancora definite né definibili le conseguenze e le ripercussioni sull'economia reale di quella che è stata ormai un'evidente crisi finanziaria. Abbiamo una SMS, un ascoltatore ci chiede titoli di Stato, avete detto che i titoli di Stato hanno avuto un buon rendimento, BOT, CCT, BTP, come muoversi nel prossimo anno? Un consiglio forse più da salvadanaio che da dietro la notizia. Rubiamo un po' lo spazio a Deborah Rosciani e cerchiamo di rispondere. Marco Liera. Sì, i BOT in questo momento hanno un rendimento estremamente contenuto, l'ultima asta un rendimento lordo inferiore al 2% annuo. Peraltro in uno scenario di bassa inflazione, che secondo i più è lo scenario che ci attende, perché in uno scenario di recessione non è molto probabile che l'inflazione rialzi la testa, allora anche un investimento come i BOT offre il vantaggio della grande sicurezza e del fatto che tendenzialmente anche in presenza di rendimenti così bassi può tutelare discretamente il capitale, però chi vuole correre qualche piccolo rischio in più può affrontare i mercati obbligazionari con dei titoli di Stato a più lunga scadenza, sia i CCT che i BTP, che possono offrire dei rendimenti a scadenza, quindi se detenuti fino alla scadenza, che battono l'inflazione attesa con maggiore tranquillità. Vorrei ricordare anche i BTP indicizzati all'inflazione, che forse sono lo strumento più adatto per chi vuole proteggersi dall'inflazione, sia essa bassa o alta, particolarmente puniti negli ultimi mesi proprio per queste attese di deflazione. Quindi gli investitori che cercavano un rifugio nei confronti dell'inflazione hanno abbandonato un po' questo investimento, però ricordiamo che l'inflazione è sempre lì un nemico da tenere presente, e che quindi prima o poi, siccome l'orizzonte temporale dei risparmiatori non è necessariamente quello di un anno o di pochi mesi, quindi prima o poi bisognerà porsi l'esigenza di ritornare a difendere il capitale dall'inflazione, e a questo scopo i BTP indicizzati all'inflazione, le cui tabelle sono riportate ogni sabato su Plus 24 con i rendimenti reali a scadenza, quindi si tratta di rendimenti effettivi reali, quindi al netto dell'inflazione, ecco che questi possono essere degli strumenti estremamente adatti per chi ovviamente è disposto a correre qualche rischio di oscillazione del prezzo. Grazie Marco, vorrei dare una piccola interpretazione autentica di quello che ho detto poco fa, forse accennato al fatto che i mercati finanziari hanno guadagnato da questa crisi. Un ascoltatore mi fa notare che non è vero che si sia guadagnato da questa crisi, indubbiamente in termini di guadagno è difficile parlare di guadagni, intendevo dire ovviamente che il mercato ha preso atto di questa crisi e indubbiamente alcuni strumenti finanziari che avevano inquinato in un certo senso il mercato. Si è parlato di titoli tossici, si è parlato di derivati, si è parlato di titoli che nascondevano la loro reale portata, si è parlato di mutui subprime, ecco, tutte queste questi strumenti finanziari sono venuti allo scoperto. Adesso il mercato è sicuramente, certamente più complesso, ma sicuramente più trasparente di prima, e questa crisi è servita a rendere più trasparente il mercato, anche se è costata notevolmente ai risparmiatori. Fabrizio da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Volevo sottoporre una domanda a vostro esperto sul tipo di investimento che ho fatto io. Cioè, in una fase di turbolenza così dei mercati, io ho fatto un ragionamento piuttosto semplice. Ho visto che un BTP con scadenza 2033 era sceso come valore nominale piuttosto basso, e quindi avendo una cedola corposa, un 5,75 lordo che mi corrisponde a un 5,25 netto, ho fatto un investimento piuttosto corposo e massiccio su questo tipo di BTP, nel senso che comunque, indipendentemente dall'oscillazione del valore nominale del titolo, la cedola è un 5,25 netto all'anno, che mi sembra un valore più che dignitoso. Volevo chiedere all'esperto quale tipo eventualmente di rischio in un investimento del genere posso eventualmente andare incontro, sapendo che l'oscillazione valore nominale è comunque elevata, ma non ho urgenze di disinvestire. Ecco, grazie. Grazie mille. Marco Lia, quello che si diceva in questi casi deve puntare a tenere il titolo fino alla scadenza, mi sembra. Ma certamente questo è un ragionamento che ha una sua logica. Devo dire che il BTP 2033 ha un rendimento effettivo a scadenza del 4,55% lordo. E perché il prezzo non è sotto la pari, ieri faceva 107,66, e quindi significa che sì, un rendimento interessante, che tra l'altro è superiore rispetto all'inflazione corrente, però nulla possiamo dire rispetto all'inflazione da qui al 2033. Cioè i BTP non indicizzati all'inflazione, i BTP ordinari, sicuramente possono avere dei tassi allettanti, però come tutte le obbligazioni ordinarie sono aggredibili dall'inflazione se questa si muove in modo inatteso, e allora da qui al 2033 effettivamente ci potranno essere tantissime occasioni in cui l'inflazione si potrà muovere al rialzo in maniera inattesa, e comunque gli scenari che ci attendono in un orizzonte temporale così lungo sono veramente tanti e imprevedibili. Quindi io dico che è una scelta di sicurezza, è una scelta che ha una grande semplicità, che di questi tempi è già molto, purtroppo, perché pensiamo a quanti investimenti complessi, inutilmente complicati, vengono offerti dalle banche. Questo è un investimento semplice, è un investimento sicuro, l'emittente è lo Stato italiano che ha un rating A+, questo significa che non c'è rischio di insolvenza a leggere le statistiche da qui a 10 anni e anche su orizzonti temporali superiori, perché ricordiamo che gli emittenti governativi che godono almeno della A non hanno mai manifestato storicamente episodi di insolvenza. Tuttavia mettere tutte le uova nello stesso paniere non è mai la politica migliore, quindi anche nell'ambito dell'investimento obbligazionario io suggerirei un po' di diversificazione, quindi diversificazione rispetto al flusso cedolare, quindi ricorrendo per esempio ai BTP indicizzati all'inflazione oppure anche a scadenze più brevi, e poi anche diversificazione del rischio emittente. Grazie Marco Riera. Luca da Livorno, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare un intervento riguardo l'attendibilità delle fonti che possiamo ascoltare. Nel senso, con questa crisi finanziaria è successo, le banche d'affari, le società di rating non sono più attendibili, i giornali finanziari relativamente, cioè per esempio, no, faccio un esempio anche di Radio Call, che continua a fare le valutazioni delle società secondo il metodo del discount cash flow, che in questo momento è molto pericoloso. Lo sapere da voi un orizzonte, un grado di attendibilità, qualcuno che ci possa dare consigli giusti. Grazie. Beh, è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono. Noi facciamo informazione quotidianamente, cerchiamo di fare informazione ovviamente credibile, ovviamente accurata, dando conto sia dei rischi sia delle opportunità, e poi ovviamente ognuno può sbagliare da solo. Marco Liera. Sì, il nostro radioascoltatore ha sollevato un punto molto molto importante, perché l'informazione è la materia prima dei mercati finanziari. Per quanto riguarda l'informazione, to court, quella che viene servita dalle agenzie di stampa, dai giornali finanziari e non, ecco, questa viene principalmente da fonti ufficiali, quali gli emittenti, quali gli stessi organi di gestione dei mercati finanziari. C'è poi invece un'informazione, e quindi questo tipo di informazione magari non è soggetta a gravi distorsioni che siano imputabili ai soggetti quali i giornali che le diffondono, casomai il problema si riferisce alle fonti primarie che diffondono queste informazioni, quindi in primis gli emittenti, se qualora ci fossero dei problemi. Però il problema che forse intravedeva, ci faceva intravedere il nostro radioascoltatore, è che c'è invece un'informazione a più alto valore aggiunto, che è l'informazione che è fornita dagli analisti finanziari, siano essi analisti nell'ambito di entità indipendenti oppure agli analisti che lavorano in banche di investimento. Ecco, si chiedeva quanto sono attendibili queste informazioni. Effettivamente molte di queste informazioni a valore aggiunto sono state smentite dai fatti, quindi dai ribassi degli ultimi mesi. Tuttavia io ritengo che per valutare un'azienda, che è un po' l'obiettivo che si pone l'investitore in azioni, perché si investe in azioni, perché si investe nell'azienda sottostante, io ritengo che l'investitore è stato, sarà sempre interessato ai flussi di cassa che questa azienda potrà generare. Quindi io so che in questa fase drammatica molte metodologie vengono messe in discussione, ma io ritengo che anche tra tanti anni chi investirà in azioni sarà interessato ai flussi di cassa che l'azienda sarà in grado di generare per lui, e quindi questo metodo di discounted cash flow, quindi di attualizzazione dei flussi di cassa, continuerà a essere una metodologia valida per investire in azioni, quindi come parti di aziende. Purtroppo le crisi dei mercati veramente sembrano travolgere ogni logica, però ricordiamo che allora uno doveva fare riferimento qualche mese fa a questo utilizzo un po' improprio delle borse come bancomat, al quale ho fatto riferimento in precedenza, e che però appunto non rientra in nessun metodo finanziario, certo. Quindi di per sé imprevedibile. Grazie Marco. Io dobbiamo fermarci qui, continueremo comunque a parlare di risparmio, su Radio 24 si parla molto di risparmio, lo faremo oggi ancora a Salvadanaio con Deborah Rosciani a mezzogiorno, Dietro la Notizia tornerà domani con un bilancio invece sul 2008. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Carmelo Loricello in regia, grazie alla redazione, l'appuntamento appunto è per domani.